Amici, vincono lo stanze che non si e prascia le stime in zirvalo cosa che mi cupono zapascia non ma usci sciossi a te scazzano.